Trattato di Pesachim, terzo capitolo, sesta Mishnah, Pere Gimel, Mishnah Vav. Abbiamo parlato dell'eliminare il Chametz. Ora la Mishnah parla del problema o della situazione in cui, come capita anche non molto raramente, la vigilia di Pesach viene di Shabbat. E il primo giorno di Pesach è domenica, il seder è sabato sera. Qual è il nostro problema? È come eliminare il Pesach durante il Chametz, scusate, durante Shabbat. Allora vediamo cosa dice la Mishnah. Vediamo alcune opinioni e vediamo come poi è stata fissata e decisa la Halakha. La Mishnah dice: Arba'a Assar, il giorno 14 del mese di Nisan, Shechal li Yot be Shabbat, che cade di sabato, di Shabbat, e di Shabbat non è possibile bruciare il Chametz, perché non è possibile fare un fuoco e non è possibile bruciare qualcosa. Meva arim et hakol, si elimina tutto, cioè tutto il Chametz, milifnei ha-Shabbat, da prima che entra Shabbat, quindi da venerdì, che è il 13 di Nisan. Quando dice Hakol, tutto, cosa vuol dire tutto? Dovrebbe dire si elimina il Chametz, cosa vuol dire tutto? Allora, quando dice tutto, è un riferimento a due tipi di cibo. Cibo normale, che si chiama Chulin, cioè profano, da Chol, e cibo di Terumà. Terumà è un cibo che invece è sacro, che mangiano i Kohanim. E ora vedremo perché c'è questa differenza, però la prima cosa che la Mishnah dice è tutto, sia Chulin che Terumà, viene eliminato da prima di Shabbat, perché non ci sia già da Shabbat del cibo che è Chametz, che sia Chulin o che sia Terumà. Divrei Rabbi Meir. Queste sono le parole di Rabbi Meir, questa è l'opinione di Rabbi Meir. Rabbi Meir ha detto, per ricapitolare, che tutto il cibo, sia di Chulin che di Terumà, bisogna eliminarlo prima di Shabbat, anche se anche Rabbi Meir intende dire, come spiegherà la Gemara, che si lascia da parte qualche cosa per mangiare di Shabbat. Questo non lo esclude. Anche Rabbi Meir è dell'opinione che una minima misura, un minimo volume di pane serve per i pasti dello Shabbat, per fare il mozzì, eccetera, questo va lasciato, ma poi sarà consumato, quindi non c'è il problema di eliminarlo, perché sarà eliminato consumandolo, mangiandolo, va bene. Però tutto il resto, che sia profano o sacro di Terumà, va eliminato da prima di Shabbat, secondo Rabbi Meir. Questa è la prima opinione nella Mishnah. Seconda opinione, che è l'opinione della maggioranza dei Chachamim, Va Chachamim Omerim, mentre invece gli altri maestri dicono Bismanan, ogni cosa al loro tempo, cioè il Chametz Chulin di normale entro il suo orario normale di ogni vigilia di Pesach va eliminato, e la Terumà, che abbiamo un orario più tardo per la Terumà, se vi ricordate, perché i Chachamim hanno anticipato l'orario dell'eliminazione del Chametz a 2 ore. Sì. Prima, per i Chulin, per il cibo normale, per la Terumà ancora 1 ora hanno lasciato. Quindi, sì, Chachamim dicono, Bismanan, ogni cosa al suo tempo, come tutti gli anni, non considerando il fatto che è Shabbat, ma non stanno dicendo che va bruciato, perché comunque non si può bruciare di Shabbat. Vi ricordate che il Biur Chametz, letteralmente, vuol dire eliminare, non vuol dire bruciare. Quindi si può semplicemente dare da mangiare agli animali. E questo significa eliminare il Chametz. Il Chametz Chulin, il Chametz profano, entro l'ora che si fa normalmente, si finisce di mangiare, poi se è rimasto qualcosa lo si dà da mangiare agli animali. E la Terumà, entro l'ora successiva, la si dà da mangiare agli animali. Come tutti gli anni, solo che invece di usare il fuoco lo si fa consumare dalle bestie, ai cani o altri animali domestici o quello che è, eccetera. Questo secondo i Chachamim, quindi non serve eliminare il Chametz prima di Shabbat secondo loro si può andare avanti normale come tutti gli anni, con la differenza che invece di usare il fuoco si elimina in quest'altra maniera. Dandolo da mangiare. Esattamente. Scusa, ma la vendita del Hametz quando è stata introdotta? Più tardi. Perché in questo caso basta venderlo e fatto. No. La mitzvah dell'eliminazione. La mitzvah dell'eliminazione comunque la facciamo tutti gli anni. Sì. Biur Hametz. Quindi qui stiamo parlando di Biur Hametz. Okay. Bene. Questa è la seconda opinione. Prego. Visto che cade di Shabbat, venerdì, dunque già da venerdì non possono più cucinare. No. Ah, sì, questo sì. Perché la cucina per consumare di sabato devi cucinare di venerdì. Certo. E però di venerdì che cosa fai? Mangi Hametz. Puoi mangiare Hametz, ancora non è e Pesach. E questo Hametz lo consumi dopo Shabbat. Solo che lo devi consumare entro una certa ora di Shabbat. Anche perché Shabbat è la vigilia di Pesach. Puoi mangiare a Shabbat allora. Entro, diciamo, le 11 puoi ancora mangiare Hametz. Vigilia di Pesach, si può mangiare Hametz fino alle 11 di mattina, per esempio. Sì, ma la vigilia viene il venerdì. No, la vigilia viene sabato. No, se viene sabato la vigilia. Shabbat, sabato. 14, il Seder si fa sabato sera in questo caso. Allora, Seder sabato sera. Sì. Sì. Ok. Okay, terza opinione. Grazie, William. C'è un'altra domanda? Ha fatto una bella domanda. C'è un'altra domanda, signori? O possiamo proseguire? Ok. Rabbi Elazar Bar Tzadok Omer, un altro dei maestri della Mishnah, Rabbi Elazar Bar Tzadok, invece dice: c'è una differenza tra terumà e chulin secondo lui, cioè il cibo di terumà che viene offerto ai konim e che assume uno status di kedusha, non si può mangiare in uno stato di impurità, non lo si può rendere impuro, non lo si può distruggere se non è diventato impuro, quindi ecco perché la terumà ha un orario più tardo. Dice Rabbi Elazar Bar Tzadok, terumà milifnei Shabbat. La terumà va eliminata invece, a contrario di quello che uno pensava, prima ancora dello Shabbat. Perché? Visto che chi mangia la terumà è meno, sono meno persone che possono mangiare terumà rispetto a chi può mangiare il cibo normale, perché solamente i Kohanim la possono mangiare e inoltre i Kohanim non la possono far mangiare ai loro animali, alle bestie, quando è ancora terumà pura. Per questo bisogna eliminarla, secondo lui, da prima dello Shabbat, perché se si arriva a Shabbat con il problema che si ha la terumà, un certo volume di terumà, non si sa più cosa farci. Allora va eliminato, secondo Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok, prima dello Shabbat la terumà. Invece chulin, invece il cibo normale, profano, che tutti possono mangiare, bismanan, al loro momento normale come tutti gli anni. Cioè, può essere anche dopo la terumà. Esatto, Shabbat, durante Shabbat arriva l'orario della Shabbat, è la vigilia di Pesach, la sera ci sarà il Seder. Arriva l'orario entro il quale si può mangiare il Hametz, diciamo le 11, più o meno è quello l'orario comunque anche in pratica, e entro quell'orario bisogna finire di mangiare il Hametz, quello che non si è finito si dà da mangiare alle bestie e lo si elimina. Questo per i chulin, ma la terumà deve essere mangiata prima. Come ci comportiamo noi? Com'è la halakha, come è stata fissata? Se vi ricordate, anche pochi anni fa è stato Pesach, è venuto la vigilia di Pesach, è stata di Shabbat. Può darsi che sia stato 2 anni fa. Allora come? Vi ricordate come bisogna fare? Così come ha detto Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok. Non c'è mitzvah di togliere tutto il Hametz di mezzo da prima di sabato, da venerdì, che sono 2 giorni prima, il 13. Il 14, che è Shabbat, si finisce il pasto della mattina presto, si fa tefilà presto, sabato mattina, si fa kiddush e si mangia il pane entro le 11, entro l'orario che si può fare Hametz, e si può tranquillamente mangiare tutto di Hametz fino a quell'orario. Non c'è bisogno di eliminare tutto da prima di Shabbat. L'importante è... L'importante è che si sappia come concluderlo e consumarlo tutto prima le 11. In pratica, la gente che già ha tutta la cucina kasher le Pesach, allora in pratica non si mangia Hametz oltre che si lascia del pane, cioè della challah, perché su quello bisogna fare la mozzi. E la matzah non si può mangiare perché è vigilia di Pesach, quindi si lascia un minimo di... In pratica si lascia un minimo di challah, ma non perché è vietato lasciarne di più. Non sei obbligato. Come? Non sei obbligato a averla. Sì, sei obbligato, sì, perché devi fare il mozzì. Non la puoi mangiare fino alla sera. Devi fare il pasto di Shabbat. Ancora devi fare la mazzà, non la puoi mangiare fino alla sera. La mazzà sì, sto pensando. La mazzà non la puoi mangiare, invece il pasto lo devi fare. Allora devi avere per forza chametz. Shabbat. No, se udash lishit si fa più tardi, però si mangia magari un frutto o qualcosa così. Sì. Subito dopo il pranzo vuol dire all'undici e mezza. Non... No, non ha il udash lishit, deve essere pomeriggio. Però può essere una con un frutto così. Non... Una bella merenda. Poi sì, una merenda. Ok? Scusa, non ho capito. Sì? I cacchini quando dicono ogni cosa al suo tempo. Ma sì. Per dire sia la terumà che i chulin. No, ma come il terumà la puoi dare agli animali in questo senso, in questa parte? Dopo che arriva il tempo, sì. Cioè, secondo dopo che scade, sì. Secondo tutti, dopo che arriva il tempo si può dare. Agli animali anche la terumà. Sì, il problema è prima. Come lo gestisci prima? Il discorso, se è sacro o non è sacro, non si può dare agli animali. Sì, questo è valido finché è possibile mangiarlo. Dal momento che non è più possibile mangiarlo, siamo obbligati a bruciarlo o a darlo agli animali, cioè eliminarlo. La differenza è l'orario, perché per la terumà vogliamo evitare, perché visto che l'orario è stato allungato dai chachamim, allora come se andassero in conflitto le due cose? Da una parte questa è terumà e la Torah dice non lo puoi distruggere. Cioè passato l'orario non è più sacro. È non è che non è... No, questo volevo dire. Hai ragione. È un cioè, punto... Quello, è sacro o non è sacro? Perché se lo dai agli animali... È sacro, ma soprassede il divieto di chametz. È sopraseduto dal divieto del chametz. Bravo. Ottimo, ottima osservazione. Pensa quanto è importante il chametz. Cioè quanto è... questo, la ricerca con lume è principalmente più importante, bravissimo. In quel caso la ricerca con il lume della Bdikat Hametz va anticipata a giovedì sera. Allora, quello che abbiamo chiarito con l'osservazione di Tony è che la terumà in teoria non la puoi rovinare, no? Se è ancora pura, la terumà impura va bruciata sempre tutto l'anno. Sì. Ma se è pura e se è valida, allora come si può rovinare? Allora effettivamente il divieto di chametz è più forte di questo divieto, e quando arriva un certo orario della vigilia di Pesach bisogna eliminare la terumà, anche se è terumà valida, non che scade la sua validità. Che il chametz è più forte. Ora la Mishnah parla di... alcune situazioni in cui una persona si è reso conto, dopo aver lasciato la propria casa, che c'è del chametz rimasto a casa. E la Mishnah fa una distinzione tra il contesto, se la persona sta andando a fare una mitzvah, quindi la domanda se è meglio tornare indietro o proseguire per la sua strada per fare quella mitzvah, oppure se sta andando a fare una cosa che non è né mitzvah, né, cioè una cosa neutra di propria volontà, oppure se sta andando a fare qualcosa che è proprio essenziale, perché ci sarebbe il dubbio se forse si salva una vita addirittura. Quindi questi sono i tre contesti, e la Mishnah dà degli esempi per ognuno di questi contesti. Vediamo la Mishnah. Se una persona il giorno 14, cioè la vigilia di Pesach, a Holech, si incammina, se ne va, dove va? Se va all'Ishchot et Pischo, va al Bet HaMikdash per shachtare il suo Korban Pesach, cioè sta andando a fare una mitzvah. Questo è il caso, il contesto della mitzvah. Altro esempio della mitzvah, Velamul et Beno. Fate caso al Ve. Ve vuol dire in ebraico E. Ma nel linguaggio della Mishnah spesso questo ve vuol dire un altro esempio, quindi si traduce con o, non con e. Non è che uno sta andando a fare il Pesach e a fare la mila a suo figlio e a fare il, come vedremo il prossimo esempio, il prossimo esempio è la sua festa di fidanzamento. Non è che sta facendo tutte e tre le cose insieme. Il ve in molti contesti, il ve in molti contesti delle parole di Chachamim è oppure. Solo faccio questa pretesto. Faccio questo pretesto. No, in ebraico non si usa così, okay. È moderno. Allora, per questo lo faccio l'appunto. Di nuovo, Haolech lishchot es pischo, chi va a shachtare il proprio Pesach, cioè ha lasciato la sua casa e vigilia di Pesach sta andando a fare il Korban Pesach. Oppure un'altra mitzvah, ve la mul et beno. Che vuol dire la mul? la Sot Milà. Ah, la Milà. Sta andando a dove deve andare per far fare la Milà a suo figlio. Oppure, Seudat Velechol, sta andando a mangiare Seudat Eirusin Bevet Hamiv, il pasto del fidanzamento nella casa del suo suocero. Cosa vuol dire? L'usanza era che prima di sposarsi si faceva un pasto a casa dello suocero e si chiamava Seudat Eirusin, un pasto di fidanzamento, Eirusin, ma fidanzamento legale, alachicamente parlando, non solamente così per far festa, si faceva un accordo legale in questo senso. E c'era una Seudà che si faceva in occasione di questa cosa, e la Seudà è considerata Seudat Mitzvah, quindi è anche questa una forma di Mitzvah. Quindi abbiamo detto tre esempi di Mitzvot: Shachtare il Pesach, fare la Milà al figlio o fare la Seudà del proprio fidanzamento. Quindi la persona sta andando a fare una mitzvah, venisgar, e si è reso conto, si è ricordato letteralmente, sheyesh lo chametz betoch beito, che ha del chametz dentro casa che non ha ancora eliminato. E siamo la vigilia, stiamo nella vigilia di Pesach, il 14 di Nisan. Allora la Mishnah dice, vediamo la situazione. Im yachol, se ha la possibilità a livello tempistico, la chazor, di tornare indietro sui propri passi, ulevaer, e eliminare il chametz che ha lasciato dentro casa, e poi ve la chazor le mitzvato, è ancora il tempo di tornare di nuovo indietro nell'altra direzione per fare quella mitzvah che stava andando a fare, cioè ha il tempo sufficiente a disposizione per fare sia l'eliminazione del chametz dentro casa che la milà, che l'altra mitzvah che sta facendo, allora è obbligato a tornare indietro. Yachazor vivaer. Allora torni e elimini il chametz a casa. Ma se non ha sufficienza, se non ha a disposizione questo tempo necessario per fare entrambe le cose, allora se non avesse il tempo necessario, vim lav, e se no, cioè se tornasse indietro non avrebbe poi il tempo per fare il Korban Pesach, eccetera, allora si appoggia alla versione originale per la Torah che è sufficiente, bitul mevatelo belibo, lo annulla nel proprio pensiero. Ci si appoggia alla regola della Torah senza applicare la regola dei Chachamim che hanno detto che bisogna anche eliminarlo fisicamente. Dunque il chametz rimane a casa. Il chametz rimane e lui lo considera nel cuor suo come se fosse polvere della terra, per non incorrere nel divieto di avere dentro casa propria il possesso di chametz, perché lui non lo considera, lui considera il bitul. Vi ricordate cos'è il bitul? Annullamento. Annullamento, annullamento vuol dire due cose, sì, lo considera come se fosse polvere, e inoltre lo rende hefker, cioè lo rende di proprietà di nessuno. E di conseguenza, per non entrare, questo non vuol dire che quando non torna a casa, quando sarà, non deve eliminarlo. Certo. Anzi, non è che rimane lì, è meglio che lo elimina o comunque lo copre o qualcosa. Però il bitul già è sufficiente, se non può fare sia l'eliminazione del chametz che la mitzvah che sta andando a fare, allora può appoggiarsi a questa soluzione. Qui c'è da vedere una graduatoria di, sì, del valore di quello che, certo, c'è. Bravo. Tra la Milà, tra il chametz, qual è la, sì, più, sì, forte, sì, quella? Quale deve rispettare di più? In questo caso, questo, allora, abbiamo detto sta cosa del bitul. No, il bitul già era da prima, la Torah ha parlato del bitul, solo che normalmente non ci appoggiamo solamente al bitul. È una scuola un po'... Che hai detto? No, è il contrario, no, hai fatto una buona osservazione, no, ma è il contrario, abbiamo studiato all'inizio. La Torah parla del bitul, sì. Il bitul è valido, sempre, ma sì, sì, solo che... Visto che tu puoi avere dentro casa tutto il bene del mondo e dire vabbè, lo rendo bitul, non tutti hanno lo stesso tipo di pensiero. È difficile definire un pensiero, è più facile definire una azione. Certo. Allora di conseguenza i Chachamim hanno detto, se tu per sbaglio ti svegli la mattina e fai colazione con chametz e poi ti accorgi che è Pesach, anche se hai fatto il bitul, comunque hai mangiato chametz. Ma dove a casa hai fatto chametz? A casa? Non puoi mangiare chametz se hai fatto già il bitul. Ho capito, ma bitul è... No! Il bitul, non è, il bitul è nel pensiero, non è fisico. Allora i chachamim hanno detto bisogna questo anche eliminare fisicamente per non incorrere nell'errore. Ok. Va bene. Ok, in questo caso hanno detto, visto che stai andando a fare la milà a tuo figlio, la milà va fatta l'ottavo giorno e se tu torni indietro non hai più tempo per farla, allora devi fare la milà. Cosa fai col chametz? Ti appoggi intanto al bitul. Altra, sì. Altro caso, se invece tu stai andando le hatzil min hagais, stai andando a salvare delle persone che sono rincorse da un esercito nemico. Gais è un esercito che sta mentre sta facendo guerra, ok? Allora, se ci sono delle persone, degli Israel, che stanno, sono inseguiti, e tu magari sei un forzuto, un grande guerriero come William, e vai lì e li salvi tutti, questa è una questione di salvare una vita. O un altro esempio, un minhanahar, salvare delle persone da uno straripamento di un fiume, cioè un problema che potrebbero annegare delle persone. Può valere qualsiasi concetto che uno debba salvare qualcuno, anche se non sono sì, questi sì, due specifici. No? Aspetta, ci sono altri. Un minalistim, oppure da dei banditi, che forse solamente rubano, ma forse anche possono, briganti, possono uccidere. Un minadeleka, o da un incendio. Un minamappolet, o da una caduta di un... Mappolet sarebbe... come una frana di una frana, sì, ma di un edificio, di qualcosa, macerie eccetera. In tutti questi casi c'è safek, non sicurezza ma dubbio di poter salvare una vita, dubbio di pericolo sì, di vita, quindi dubbio di poter salvare una vita. Allora in tutti questi casi la Mishnah dice e simili, come diceva Alberto, anche casi simili, quando c'è il dubbio di pericolo di vita, yevatel belibo. Lì la Mishnah dice chiaramente, non fa hai tempo per tornare indietro o non hai tempo. No, non si considera. Si ha priorità, ma yevatel belibo, annulla nel cuore il chametz. Direttamente si passa sulla fase bitul. Come si fa yevatel nel suo cuore il chametz? Il bitul per definizione si fa nel pensiero. Cioè lo si formula con la parola, io rendo nullo, rendo come se fosse polvere, non è una preghiera, è una formula legale. Ma fa un voto. Rendo, non è un voto. Rendo nullo il chametz, se dovesse esserci del chametz che è dentro casa mia, io lo considero come se fosse polvere della terra. Okay. E lo considero di proprietà di nessuno. Basta. Lo dichiari, insomma. Terzo contesto. Se invece la persona va a fare una cosa neutra, che non è mitzvah come andare a shachtare il Korban Pesach, e non è sicuramente un pericolo come salvare qualcuno da un incendio, qual è l'esempio che stiamo facendo? Non è che stiamo facendo l'esempio, sta andando al centro commerciale. Facciamo comunque un esempio da una cosa che ha un contesto alachico, ma che non è obbligatorio. Vediamo qual è. Velishbot shevitat Hareshut. Il contesto è questo. Durante Shabbat e durante i Moadim c'è un divieto che ci vieta da andare oltre un determinato perimetro, 2000 amot, circa un chilometro, fuori dal luogo abitato, vuol dire dalla confine della città. Tu puoi camminare tutto intorno, la distanza di un chilometro, ma oltre questa distanza di Shabbat non si può uscire, se non c'è abitazione che lega alla città stessa. Se una persona deve fare una camminata di Shabbat o di Moed per arrivare in un luogo che è più lontano da questo, c'è una soluzione, è un tipo di Eiruv. Come si fa? Praticamente lui deve come acquistare un luogo, acquisire, diciamo, fare proprio un luogo che è prima del confine di quei 2000 amot, E poi di Shabbat potrà camminare 2000 amot da quel punto. Come si acquisisce il luogo? Si chiama Lishbot, qui la Mishnah lo chiama Kone Shevita o Lishbot Shevita, cioè quando entra Shabbat, lui si trova lì. Lui va lì prima di Shabbat o di Moed, in modo tale che quando è il tramonto e quando entra Shabbat e fa notte, lui è già lì. Quindi è come se acquisisce la sua presenza in quel posto. Poi torna a casa, ma domani può camminare da quel punto 2000 e non dal punto di confine della città. Ha più spazio. Ma perché qua il rischio è del trasporto. No. Perché non si può camminare fuori del... Durante Shabbat e Moed non si può camminare fuori, andare fuori da un certo perimetro intorno alla città. In una città, anche se è grande come... Sì, non c'entra con andare a piedi o meno. È una cosa che sai adesso. Se una città è grande come Shanghai, città grandissima, puoi camminarla tutta 30.000 volte. Finisce Shabbat. Fuori dal centro abitato hai un limite. Fuori dal centro abitato. Considerato non per le metropoli, magari se tu abiti in una campagna. Anche per le metropoli, perché sì, non per le metropoli? Però la metropoli comunque il centro dice abitato è sempre grande. Più largo. Sì, che comunque... no, è vero, però se tu abiti alle periferie. In periferia, se tu abiti al trullo, e bisogna vedere se entro una determinata distanza ci sono delle abitazioni. Se sono entro una determinata distanza, allora dall'ultima di queste abitazioni hai questo spazio. È più facile città nel deserto, Israele, Beersheba sta nel deserto. Si basa su questo, quello che era nel deserto. Questa cosa qua, secondo me, sì, è la protezione del Shabbat nella nostra popolazione. Può essere. È una tipo una c'è scritto sulla Torah al Yetze ish mimkomo bayom hashevi, nel giorno di Shabbat non si esce dal proprio luogo. Il proprio luogo vuol dire la città. Ora, solo per concludere la Mishnah, e abbiamo concluso. Allora, se una persona vuole andare la vigilia ad acquisire un luogo, ok? A fare presenza prima di Moed, perché quando entra Moed vuole rimanere lì, in modo tale che domani può camminare oltre quel punto e non solamente oltre il punto della città, concludo. Se fa questo, ma per quale motivo? Shevitat ha-reshut. Reshut vuol dire il suo volere. Neutro, motivo neutro, non di mitzvah, non di obbligo, cioè gli va di trovare un amico che si trova al di là e allora acquisisce il luogo così, ma non è che sta andando per fare una mitzvah. Allora, e poi si accorge che ha il chametz dentro casa, yachazor miyad, deve tornare subito, cioè il fatto di tornare a casa e eliminare il chametz è più alla priorità rispetto ad andare lì e acquisirsi un posto per un motivo di non obbligo, di così perché gli va. Se invece il motivo è per un obbligo, per una mitzvah, che tipo di mitzvah può essere? Rashi dice, per esempio, che deve andare a trovare un avel, uno che sta in avelut, o deve andare al Bet HaMidrash, il luogo dove studia Torah, o deve andare a trovare il suo maestro, perché è una mitzvah andare a trovare il proprio maestro durante il Moed, nei tre regalim. Simile alla mitzvah di andare a Yerushalayim, cioè la mitzvah di andare a trovare il proprio maestro nelle tre regalim. E allora, in quel caso, può appoggiarsi sul bitule, non deve tornare indietro. Ma se invece è una cosa di reshut, cioè non di mitzvah, allora deve tornare indietro, anche se ha rischio di non poter fare la shevita, acquisire quel luogo per camminare oltre durante Moed. Allora questa è stata la conclusione della settima Mishnah. Se concludiamo l'ottava, finiamo il capitolo. Dai. Ok. Inoltre, in maniera simile, l'idea di essere uscito da un luogo e poi essersi ricordato di qualcosa dimenticato dietro. Adesso lo allarghiamo a qualcosa che non è specifica a Pesach. Ok? Se qualcuno viene a Gerusalemme, a Gerusalemme, per fare un korban, korban per esempio offerta personale, un shelamim. Shelamim è un korban che si consuma una parte, il Kohen, una parte l'altare, una parte la persona che lo porta. Va consumato entro un determinato tempo e in un determinato luogo. Deve essere consumato dentro Gerusalemme. se la persona esce da Gerusalemme, Chen mi sheyatza mirushalayim, venizkar e si accorge sheyesh biyado besar kodesh, che ha in mano nella valigia, gli è rimasta della carne, che è carne kodesh del korban, che non può uscire fuori da Gerusalemme. E quando esce fuori da Gerusalemme diventa pasul, va bruciato, anche se ancora non è passato il tempo. Se è passato il tempo e non è stato consumato, va bruciato. Ma anche se esce dalle mura, da dove non, dal confine, e anche se non è passato il tempo, diventa anche con questo pasul e va bruciato. Ok? E la persona è uscita da Gerusalemme. Im avar zofim. Se ha già passato, è già oltrepassato il luogo che si chiama Zofim, che secondo alcuni è un monte dal quale si vede il Bet HaMikdash, perché Zofim vuol dire vedere, Zofè. Una vigile. Secondo altri si tratta da qualsiasi posto da cui si vede Gerusalemme ancora, c'è una differenza d'opinione. Se ha passato questo luogo, allora non deve tornare indietro, lo brucia lì dove si trova. Sorfò bimkomo. Arazofim. Sì, lo brucia dove si trova, non deve tornare indietro per bruciarlo, perché in teoria dovrebbe essere bruciato dentro. Okay? Se è ancora nella vista, se è fuori dalla vista, se non è più nella vista, avar zofim, ha oltrepassato, allora non è obbligato più a tornare indietro, ma lo deve bruciare lì sul posto. Mentre invece veim lav, se non ha ancora oltrepassato questo limite, allora Joser torna indietro, vesorfo, e lo brucia, quella carne, la brucia l'ifnei habira, dinanzi alla birà. Cos'è la birà? C'è una discussione nella Gemara. La birà potrebbe essere un riferimento al Bet HaMikdash, cioè lui torna vicino al Bet HaMikdash, nel monte del Tempio, e lo brucia. Secondo un'altra opinione c'era proprio un luogo dove si bruciavano le cose che si chiamava birà, ma sempre lì vicino al Bet HaMikdash. Ok, in ogni caso deve tornare indietro e bruciarlo lì. Benissimo. Con cosa lo brucia? Me'atzei ha'maracha. Lo brucia con la legna che sarebbe stata usata sul misbeach, sul braciere del misbeach. Perché? Innanzitutto, il korban invalido come questo va bruciato nel luogo in cui si sarebbe mangiato, quindi entro quel confine lì. E inoltre, però il luogo in cui va mangiato è Gerusalemme, perché deve venire vicino al Bet HaMikdash, il monte del Tempio? C'è chi spiega in maniera molto pratica, visto che si tratta di uno che non è cittadino di Gerusalemme, infatti stava tornando a casa, allora dove lo brucia? Torna all'Arabait, non è che ha casa sua o sul proprio cortile, torna all'Arabait e non ha la propria legna, e usa la legna della Maracha, che c'era una stanza predisposta con tutta la legna preparata, e gli danno un po' di legna da lì, e lì brucia. Ok? Ora, la Mishnah fa riferimento a questo caso appena ricordato, e al caso di cui parlavamo prima della Chametz che è rimasto a casa. In tutti e due i casi la Mishnah fa la seguente domanda: qual è il volume minimo per il quale bisogna tornare indietro? Cioè, in alcuni casi abbiamo detto bisogna tornare indietro a bruciare il chametz, o bisogna tornare indietro a bruciare il korban che è invalido. Ma se è una minimissima misura, bisogna comunque tornare indietro, o c'è un minimo da quel volume in poi bisogna tornare indietro? Come per tutte le cose dove c'è cibo, bevanda, c'è sempre un minimo e un massimo, o comunque... Allora, esiste qui... Allora la Mishnah dice: ve'ad kama hen chozrin, e per quale volume devono tornare indietro? Quando abbiamo detto che devono tornare indietro, per quanto di chametz o di carne pasul? Abbiamo prima l'opinione di Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer, prima di tutto, perché c'è una discussione qui? Perché la domanda è: su quale criterio ci appoggiamo per considerare questo volume? Se partiamo da un punto di vista di qualcosa di impuro, ok? Il cibo per poter diventare impuro e trasmettere impurità, deve essere una minima misura di kabeitza, cioè la misura di un uovo, il volume di un uovo. Oppure possiamo considerare questo criterio, oppure possiamo considerare il criterio normalmente che esiste per il divieto di cibarsi, di un cibo vietato. Qual è il momento in cui scatta il divieto vero e proprio? Quando arriva al volume del kazait, che è minimo, cioè il volume di un'oliva. Allora, per tornare indietro, vogliamo considerare il volume di impurità, che è quello dell'uovo, o il volume del divieto normale, che è di una oliva? Questa è una discussione. Rabbi Meir dice, Zeva Zebe Kabeza. Rabbi Meir dice, il ritorno indietro è per il volume che sarebbe stato per l'impurità. Così come l'impurità richiede una misura minima, un volume minimo di un uovo, di un volume di un uovo, allora anche per il tornare indietro serve che ci sia almeno questo volume. Cioè, se ti ricordi che c'hai chametz a casa, ma è minimo del volume di un uovo, anche dove abbiamo detto che devi tornare indietro non si applica, non devi tornare indietro. Fai il bitul e basta, anche se stai andando per una mitzvah. Scusa, non stai andando per una mitzvah, dovresti tornare indietro. Uguale per la carne. Zeva Zeh, in entrambi i casi, sia per il chametz che per la carne invalida. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice no. È più rigoroso. Zeva Zeh bekazait, in entrambi i casi, sia per la carne invalida che per il chametz, già se c'è il volume di un kazait, cioè di un'oliva, bisogna tornare indietro, nel caso che uno non andava per la mitzvah, eccetera, che abbiamo visto. Mentre invece i chachamim distinguono tra un caso e l'altro. Chachamim omrim, Besar Kodesh Bekazait, visto che la carne è invalida ma è comunque una questione di Kodesh, e quindi vogliamo essere più rigorosi per il Kodesh, per ciò che sarebbe stato sacro, e di conseguenza vogliamo essere più rigorosi, appunto, e allora lì il volume è minimo, è minore di un Kazait. Da un Kazait in poi, un'oliva in poi, dobbiamo tornare indietro. Mentre invece per il Chametz, chi va a shachtare il suo Pesach, va a fare una mitzvah e si ricorda di avere chametz dentro casa, di che volume dobbiamo parlare? Minimo di kabeza, minimo di un uovo. La halakha segue l'opinione dei chachamim, che c'è una differenza, si distingue tra i due casi. Qui abbiamo concluso il capitolo 3 e il capitolo 4, se Dio vuole lo vedremo la prossima volta.